Dunque, ritorniamo qua in onda, mentre il nostro regista un po' lo sto facendo uscire pazzo, questo me ne rendo conto, ancora non ha i ritmi di Pietro Rilancio e la sua sopportazione umana. Ma, sì, ma questo è chiaramente Ma comunque umorismo. c'è da dire Pietro Rilanci e Pietro Ne coven, ne cof. Nicola, Ne coven, ne Nicola, cof. due persone Sì, se no uno si chiamava Nicola, l'altro si chiama sì, ma poi se avevamo un altro Pietro Rilancio, veramente ci dovevamo solo sparare in questa rana. Ma addirittura, dunque, se mi fai leggere la frase di Marcello Lippi, in questo caso della Juventus, che è una bella frase, i miei tifosi juventini apprezzano. Dunque, monologo, no, è un monologo perché lo vediamo qua fatto a interlinea 2. Ma dunque, giocare nella Juventus significa non accontentarsi mai. Questo è vero. Vinto lo scudetto, bene, c'è la Champions. Vinta la Champions, bene, c'è l'Intercontinentale. Vinta l'Intercontinentale, bene, c'è da rivincere lo scudetto. C'è sempre poco tempo per festeggiare. Questo l'avrei detto nel 97, penso. E beh, grande Lippi, grande Lippi, grande Lippi. Poi l'hanno cacciato a calci nel sedere. Stavo dicendo a calci nel culo, ma mi mantengo la prima definizione. Ma parlando di sport, forse è giusto in questo caso, perché nella scorsa puntata non me la sono sentita neanche di cavalcare l'onda delle emozioni di quant'altro. Abbiamo fatto un altro tipo di puntata, in questo caso tematica sulla fiction, ma dopo circa 10 giorni è giusto parlare anche nel mio programma della tragedia che un po' ha sconvolto tutta l'Italia, in questo caso la dipartita di Marco Simoncelli in Malesia, in quel incidente maledetto. Dunque, dico subito, non ho visto la gara, quando non sono appassionato di questo sport, lo ammetto, ma ho visto, causa anche influenza, il post-gara, che è stato praticamente immediato. Ho visto le fasi in cui Guido Meda, Beltrame, comunque lo studio centrale faceva fatica a commentare ciò che stava accadendo. Ecco, forse un'immagine che rimarrà nel cuore anche di tutti gli italiani è stata la grande umanità. Questo bisogna dire, perché Mediaset in questo caso ha fatto un grande lavoro, non ha calcato la mano, ha rispettato i tempi giusti, perché fare un evento in diretta in questo caso è sempre particolare. Poi quando succede un incidente, in questo caso un incidente ad un amico, perché bisogna dirlo, c'è una stazia, era un amico di tutti, sì. Questo sì, c'è Emilio qua, nemici, che ecco. Anche se c'erano nemici diciamo tra di loro, però è normale che quando uno corre o pratica un qualcosa di agonistico, cioè c'è sempre rivalità ai fini della gara, per poter arrivare primi, secondi e terzi. Vabbè, ma al di là dell'agonismo, poi il mondo del motomondiale è un mondo a parte, anche rispetto a quello della Formula 1, è molto molto più umano, molti più report anche tra gli stessi cronisti e gli sportivi, perché comunque sono gente che stanno insieme 9-10 mesi all'anno in diversi posti del mondo. Ecco, vedere dopo l'incidente Beltramo, i vari Guidomedi, lo studio centrale, comunque mostrare veramente segni sinceri di commozione, cioè, questo è stato veramente il modo migliore per onorare la memoria di Marco Simoncelli. L'hanno fatto in modo sincero, ribadisco, l'hanno fatto in quel modo sincero in cui tu ti accorgi veramente dell'umanità delle persone, quanto una persona cerca di esprimersi con tutto il cuore, perché in certi casi non è facile veramente lavorare. Lo dice una persona che sì, ha lavorato veramente pochissimo rispetto a me, da Beltramo o altro, ma quando si è trovato di fronte a incidente, purtroppo a fare cronache dei funerali, è rimasto sempre scioccato. Quindi figuriamoci chi doveva commentare in diretta la morte di un amico, perché di tale si tratta. Sì, giusto. Ma infatti Guido Meda, cioè io per quanto l'ho potuto seguire, perché ero al lavoro, cioè per quanto l'ho potuto seguire, magari ho visto dopo i filmati su internet, ho visto che c'era anche un tono di tristezza nel commentare questo funerale, diciamo più che altro funerale, secondo me l'hanno voluto prendere come una festa, perché cioè era Marco che era Marco, sì. Era Simoncelli presente, come anche ha detto il dottor Costa, sì, i funerali, come ha detto il dottor Costa, che Marco questa volta vi ha fregato, vi ha fatto uno scherzo, ritornerà ed è nel cuore di tutti, sì, ecco. Frasi molto belle, perché sì, perché alla fine non c'era niente di male da dire contro no. questo ragazzo, perché era un effettivamente anche da chi di questo sport non sì, ne capisce sì, nulla sì. Sì, vedeva comunque un Simoncelli che era un'immagine, perché dico ma purtroppo dobbiamo dire era fisicamente. Fisicamente sì, dobbiamo dire era. Un'immagine, era... Ma è un'immagine, diciamo mentalmente è un'immagine. Come si dice in gergo nostro, in gergo paesano, cioè era una macchietta. Era una macchietta, sì. Ecco, ma era un termine giusto, era, sì, ma era una macchietta fuori dalla pista, perché in pista veramente era sì un personaggio, ma era veramente un lottatore vero. Sì, sì, sì, sì. Era infatti, una persona che combatteva dava l'anima. Io mi ricordo nelle 250, quando correva nelle 250, l'anno che ha vinto il mondiale. Cioè, fin quando non gli ha dato la cagiva, non gli ha dato la gilera, scusa, non gli ha dato la moto ufficiale, lui diceva, si lamentava sempre, però diceva che io fin quando posso la sistemo a modo mio e cerco di arrivare ai primi. Anche perché Simoncelli, sì, correva da un paio d'anni, score di vittoria erano 14, ha vinto questo titolo mondiale 250, ma sì. Forse ne sono certo anch'io, che di questo sport, ripeto, non ne capisco nulla. Era un motociclista che nel giro di 2 o 3 anni poteva vincere anche un mondiale di MotoGP. Infatti lui ha fatto il passaggio, diciamo, veloce, perché ha fatto un anno solo in 125 e l'anno dopo è andato subito in 250. Cioè non ha fatto molti risultati, perché essendo un pilota che cadeva spesso, diciamo non riusciva a trovare la sua via. Però poi l'anno successivo c'è stato l'exploit. C'è stato l'exploit di Simoncelli, ha vinto il mondiale, e poi l'anno dopo. Come tutti i talenti, d'altronde, sì, sì, ci vuole il rodaggio. Però il suo è stato fulminante rispetto a un grande campione come Valentino Rossi. È stato più fulminante, perché in tre anni ha fatto il passaggio in MotoGP. Sì, dal quarto di litro alla MotoGP. Sì, in MotoGP. Sì. Ovviamente lui, essendo un talento, e giustamente io perlomeno, come lo posso descrivere io, un talento, sì, un vero talento. Lo riconoscono tutti su questo. Lui l'anno scorso ha fatto la prima stagione in MotoGP, ovviamente la MotoGP è molto diversa da tutte le altre categorie, anche dalla Superbike, lo disse Tony Elias. E lui voleva essere competitivo là tra i primi, quindi la Honda gli ha dato per il primo anno la moto ufficiale a costo zero. Poi il secondo anno, ovviamente, col team Gresini se voleva rimanere competitivo doveva avere qualche supporto anche monetario, e quest'anno stava crescendo molto. Sì, sì. Ha fatto, se non erro, un paio di podio al terzo posto, e poi terzo, poi secondo, sì, sì, secondo, terzo, e poi ha fatto tutti i quarti, quindi diciamo che è sempre stato un pilota da... Sì, se la battevano con Dovizioso già all'epoca, quando iniziarono con le mini moto che facevano sportellate tutti e due, diciamo che se la battevano su questi gradini qua, quarto, se la batteva con Lorenzo, che sì, con Lorenzo anche. C'è stata poi la Putiferia quest'anno che l'aveva fatto cadere, però poi Lorenzo si è dimostrato come un signore, non un signore, più di un signore, ecco. Cioè come se fosse un amico da piccolo, ma piangeva anche lui al funerale davvero come un bambino. Poi indipendentemente da quella che comunque l'agonismo e quant'altro, poi infatti io ti posso dire una cosa, cioè ce ne sono stati altri incidenti, tipo un Daka. L'altro è, non mi ricordo, comunque vabbè, era sempre vabbè. Un nipponico, Tomizawa, ecco, Tomizawa mi riferisce Carlo, grazie del suggerimento. Cioè anche loro erano talenti, cioè sono stati portati alla gloria anche per questo. Io comunque volevo solamente aprire una piccola una differenza. E il giorno prima Simoncelli registrò un video che su YouTube, quello seduto sul letto, dove disse che, cioè, spero di essere là al primo posto, sul gradino più alto, per essere visto da tutti, perché da là si vede meglio. È rimasto al primo posto nei cuori, diciamo. Come disse anche Paolone, il suo amico, cioè che è stato definito più di un amico, cioè ora ha vinto la gara più, diciamo, ha vinto quella su tutte, la morte, è arrivato al primo posto, dove da lì si vede, cioè è stata pure una settimana invocata, diciamo, molti post su Facebook. C'è stata grande solidarietà, questo bisogna dire. Scusami se ti interrompo, perché sull'aspetto sportivo dobbiamo anche Parlando in altro modo, ecco, perché giustamente non ne ho la competenza, poi sarebbe riduttivo parlare anche dell'aspetto meramente sportivo di tutta la carriera in un quarto d'ora che abbiamo di questo blocco. Bisogna fare un paragone, ecco, perché grandi meriti a Mediaset, in questo caso, sulla discrezione avuta sull'episodio Simoncelli, ma grandi demeriti in un altro caso, sul caso di Sara Scazzi. Ecco, in quel caso si annunciava anche una morte in diretta, anzi, rettifico, quella è stata la RAI. Ecco, sono due casi in cui sono morti due giovani, sono due casi sentiti in Italia, ma sono due casi totalmente opposti. Ecco, se in Marco Simoncelli c'è stata una grande partecipazione da tutta Italia, perché era un campione ed era conosciuto, nell'altro caso di una ragazza di 15 anni che viene uccisa, non si sa da chi, non si sa da cosa, hanno fatto veramente di tutto mediaticamente, e l'Italia ne è uscita malissimo. Ne è uscita malissimo, perché veramente mercializzare, diciamo, fare propaganda sulla morte in diretta è stata una cosa squallida. È una via di mezzo, però, tra Marco Simoncelli e Sara Scazzi. È un paragone che non si deve fare, ma lo facciamo solo dal punto di vista cronistico, bene dire. Una via di mezzo è stata la morte di Marco Pantani qualche anno fa. Un Marco Pantani che era in una fase decadente della sua carriera, che non ha ricevuto forse anche i giusti meriti da una parte di stampa che è stata brava nel lodarlo quando vinceva il Giro d'Italia, quando vinceva il Tour de France, ma lo ha distrutto un pochino troppo quando è stato trovato positivo all'antidoping, positivo peraltro quando lo erano tutti quanti, ecco, sì, per una questione che non era neanche doping peraltro, qualcosa di immaginare che non sto qua a ricordare, ed è stata la parabola discendente di un campione che poi sì, si è perso, ha fatto uso di sostanze stupefacenti, purtroppo è deceduto in un albergo veramente in modo molto malinconico. Ma diciamo che in quel caso l'Italia non si è accorta di Marco Pantani, non necessariamente, ma questo è un omaggio, sperando poi che ci sia qualche bravo autore, qualche bravo cantante che dia anche il suo gesto a Marco Simoncelli. Questo è un omaggio fatto dagli stadio a Marco Pantani, la canzone E mi alzo sui pedali, peraltro colonna sonora della fiction omonima di qualche tempo fa in Rai. Dunque, Nicola manda la canzone, ci ritroviamo qua tra un paio di minuti.